In diretta dal castello, Lord Camicia. La dama bellissima. La madame, la no, Notre Dame de Dama. E attenzione, attenzione, il lord del castello, the gringo, el gringo. El gringo. Vabbè, siamo qua, dai, siamo qua per il primissimo lunedì della nostra vita, perché gli altri erano martedì, anzi l'altro. Così, noi ogni tanto alterniamo, martedì, lunedì, ma la prossima sarà? Allora, pare che saremo il lunedì, è ufficializzato, oh, Assemblea Wombat, felicissimi di poter ufficializzare questa cosa. E salutiamo subito, visto che finalmente ho avuto l'occasione di riscorgerli, il Neverendo e Dottor Io. Grandi presenze su Radio Wombat, sia per quanto riguarda Radio Contado che Radio Contatto. Radio Contatto e ormai Radio Contagio. Radio Contagio. Hanno esordito con Frittole Insalubre. Questo è ottimo. Stavano, attenzione, vibrano cose, vibrano le emozioni oggi, infatti da questo lunedì piovoso sarete tutti a casa a ascoltare la diretta su Wombat dalle 19 alle 21. Ringraziamo anticipatamente tutte coloro che ci manderanno contributi e che chiacchieranno con noi stasera. Qui è il Camisa. Ricordiamo come mandare contributi. Allora, sul sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, trovate in home page il collegamento al pad dove poterci scrivere in diretta. Allora lo apriamo subito anche noi, così ci potete scrivere, facciamolo insieme. Allora io scrivo wombat.noblogs.org, poi con la sua tutta la sua tranquillità si apre, e poi sulla destra scende un pochino e c'è scritto in viola bellissimo: per interagire col Wombat durante le dirette, accanto a diretta, esatto. Wombat, si esatto, sottolinea, esatto, cliccate, si apre il pad, attenzione perché sale l'emozione. C'è scritto loading, puntino, puntino, puntino, caricamento in corso, puntino, puntino, puntino, e an error occurred. No, eccoci, scrivo eccoci. E ci vuole un po' di lentezza, lo sapete benissimo, con queste connessioni, con i nostri potenti mezzi, però alla fine si apre la pagina. Assolutamente. Scrivi un saluto, eccoci. Fatto, eccoci. Hola. Niente, ma siamo gli unici, perché a destra si vede anche in quanti siamo. E vabbè, salutiamo ovviamente calma tutti i nostri 11.000 ascoltatori. Abbiamo appena iniziato. Abbiamo appena iniziato. E quindi subito, io ho subito un brano di Incipit, veramente gasante. Si va? Si manda, vai, tutto vai, volume? Manda subito un brano e poi magari facciamo un punto sulla puntata. Rumor spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm on. piace, ci piace camicia. Vogliamo ricordare a Gringo che dovrebbe spegnere il telefono, che non siamo su Amore in Chat. Quella è un'altra cosa. È buona educazione spegnere il telefono quando si va in onda, a meno che non sia il telefono adibito alle telefonate. Ma qui non siamo ben educati, quindi possiamo anche... Facciamo un po' come cazzo ci pare. Esatto. No, è che lui poi si sente il padrone del castello qua. Bello, l'ho introdotto così. L'ho introdotto quindi così. È giusto che si senta il re del castello e della serata e della puntata. Ma di che parleremo oggi, ragazzi? Allora, dicelo te, dama. Così non ti faccio bere il vino. Io posso fare un intro sulla prima parte, che sicuramente vedrà contemplate persone... Ah, il Gringo non l'ha studiato. Infatti, vedo questi gesti e mi dico, che cacchio andiamo a parlare? Vabbè, sarà una sorpresa anche per te, Gringo, dai. Allora, poi chiude, tapparti le orecchie, Gringo, mentre lo dico ai nostri amici radioascoltatori, perché per te deve essere una sorpresa, non puoi saperlo in anteprima. Allora, sicuramente ci saranno ben due collegamenti da Bergamo, bello, ormai a cui io sono affezionata e da cui io provengo nella mente e nel cuore, anche insomma in me, la famiglia, insomma, sono tutti lassù. E, uno per ripercorrere uno spazio che insomma ho deciso, ma grazie a voi insomma ho trovato il reale spazio di questa piccola rubrica della Dani, che come c'è stato la settimana scorsa la manderemo in onda anche questo lunedì, e lunedì successivo si ci manderà dei contributi. E poi un giro su cosa sta succedendo nel territorio a livello di movimenti sociali di aiuto e di sostegno. La scorsa settimana eravamo in Sicilia e quindi adesso abbiamo deciso di andare nel profondo nord, e quindi nella Bergamasca, con Rosita, una mia carissima amica. Bellissimo, bellissimo. Si va da un estremo all'altro dell'Italia, ma trasmettiamo dal centro più o meno. Siamo un po' il baricentro. Più o meno, no, centro nord, per il meteo il castello è un posto, cioè non si sa, è vero, è in un buco nero, potrebbe il castello ovunque. Errante del Gringo, esatto, come dire. Come non fare una citazione colta? È coltissima, coltissima. Tra l'altro è uno dei cartoni dove più volte viene detto Dio bestia. Il grande Miyazaki. Non so se ti ricordi. Il castello errante, no? Il Dio bestia? Sì, sì, era il Dio, ma c'era, sì, vabbè. Non ci perdiamo in queste cose. E parlaci un attimo di questa rubrica che manderemo dopo il prossimo brano. La volta scorsa... Beh, perché allora, questa diretta che facciamo noi è una diretta che è nata 2 mesi fa per parlare, aggiornare tutti quanti sulla situazione del Covid, e per parlare però ovviamente della situazione di quello che non viene raccontato dai telegiornali o dai social, cioè quello che succede non nei bassi fondi ma nella base della società, nei movimenti organizzati, tutti tra gli invisibili che non vengono considerati né da decreti né dall'opinione pubblica. E quindi questo contributo com'era, si era inserito? Ma questo contributo si inserisce come il contributo scorso di Catania, come spero ne avremo altri, di realtà che insomma noi ne siamo a conoscenza perché tramite amici di amici, tramite contatti, portano e raccontano le loro esperienze, loro personali, inseriti poi in un gruppo di positività, supporto, mutuo aiuto, di solidarietà che sono nate in questo periodo. Purtroppo non grazie proprio allo Stato, ma grazie all'auto-organizzazione di persone. Perché è giusto raccontare, nonostante sia un periodo veramente faticoso e tetro sotto alcuni punti di vista, c'è anche questa parte di solidarietà, sostegno e di meraviglia, perché poi insomma abbiamo sentito anche la voce di Anna la scorsa puntata a Catania, con che gioia, insomma, cioè con che voglia di vivere, di lottare, di credere, no, nella positività umana, ci raccontava la sua esperienza. E vedremo oggi insomma a Bergamo che cosa è successo. L'obiettivo era quello insomma di dare voce alle persone, che cioè alle esperienze che non vengono raccontate, che non vengono scritte sui giornali, alcune sì, alcune no, magari su dei giornali locali, ma che non passano nel quotidiano, per dare un po' di speranza e poi per avere un'informazione anche un po' più completa di quello che realmente accade, perché anche se una realtà è piccola accade in quel momento ed è importante darci voce. Quindi l'idea era un po' questa, di questa rubrica, nel bene e nel male, con i controsensi che poi emergono dai racconti delle persone. Anna ci evidenziava molto insomma il controsenso il comune di Catania, che comunque non aiuta, però nel momento del bisogno li ringaggia, però poi solo se non parlano alla gente, ma solo se gli danno cibo. Però comunque loro sopravvivono ed è un'esperienza importante. Beh, bella l'idea e bella l'esecuzione. Quindi io propongo un delle menti sospettose di Elvis Presley e poi si può andare direttamente con il contributo? Assolutamente. E questa Radio Wombat che ci aspetta 19:20. Ah già, bene, bene, bene. Allora mandiamola subito un po' di musica. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Torniamo nel castello. E nel frattempo stiamo provando a chiamare Rosita. Oh, suona. Suona libero. Suspense. Attimi di suspense. C'è un'interferenza. Sarà il telefono come al solito. Ciao Rosita, siamo Dama, ciao. Gringo ciao. E Camicia. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie dell'invito. No, grazie a te, insomma, di essere qua sulle onde, insomma, un po' distanti. Come dicevamo prima, il nostro castello è un castello errante, però sicuramente non è vicinissimo a Bergamo per il momento, anche se insomma tanto affetto ci lega da anni. E noi, ecco, come si introduceva un pochino prima la puntata, ti chiamavamo perché sappiamo che insomma, fai parte di un gruppo di persone che insomma in questo periodo faticosissimo, soprattutto per la provincia di Bergamo, state organizzando una rete solidale insomma, che ha avuto un impatto veramente forte. Ci vuoi raccontare qualcosa? Ma sì, allora io sono qui per raccontare di Super Bergamo, che è un progetto che è nato agli inizi di marzo su iniziativa del Maite, che è un circolo ARCI di Bergamo, in Città Alta in particolare, e che è nato un po' spontaneamente con il bisogno di dare una mano a chi in quel momento non poteva uscire a fare la spesa perché magari era over 65-70, perché magari era positivo, perché era stato in contatto con dei positivi, insomma c'è stato un momento lì di grande di lockdown, diciamo, estremo. E quindi questo ARCI ha iniziato a organizzarsi per attivarsi appunto e uscire a fare le spese laddove altri non potevano farlo. Molto velocemente, il comune in realtà che si è subito avvisato e con cui si è poi stretta una collaborazione, anche un coordinamento di volontari sui quartieri, si è attivata appunto una rete di volontari che in pochissimo tempo è diventata molto corposa. Quindi ragazzi, ma non solo, che inseriti in questo gruppo WhatsApp super agile e veloce, e sono riusciti a farle spese per tutto questo tempo, quindi medicinali, alimentari. È nato così, molto, direi, altrettanto velocemente. Una rete di altre realtà si sono unite a Maite, un po' per passaparola, un po' per amicizia, un po' perché tutti in quel periodo lì si sentiva la necessità di fare qualcosa. Ma e si sono unite, e quindi come, oggi no? Ci sono appunto una rete di associazioni, circa 200 volontari. Beh, nel frattempo si sono attivati altri sottoprogetti. Sono tantissimi 200 volontari, ma che gravitano su Bergamo e provincia? Sì, Bergamo e provincia, soprattutto sulle spese, ma poi in realtà si sono creati dei sottogruppi, una parte che si occupa dei bisogni educativi emergenti in questa fase, una parte che si è occupata della scrittura di un paio di bandi, di progetti per cercare fondi. C'è una parte che si è occupata dell'attivazione di un'asta sempre per fare un po' di raccolta fondi, quindi diciamo all'interno del progetto poi si sono articolate delle sottoazioni, perché appunto in questi mesi poi la situazione è andata diventando sempre più complessa fino a, diciamo, un paio di settimane fa, due o tre settimane fa, quando invece è un po' cambiata la situazione. Però sì, direi che è stato abbastanza incredibile la quantità di energia che questo progetto ha attivato. L'hai sentita forte, no? Ma sia per il numero di persone, ma anche per chi ne ha fatto richiesta? Perché com'era possibile contattarvi per chiedere aiuto? Ma allora, io ti dico come l'ho conosciuto io, che non appartengo in realtà a nessuna delle realtà che hanno attivato il progetto. Io ho proprio visto un post in Facebook che semplicemente diceva: bisogna di fare la spesa, sei un volontario che potrebbe fare la spesa per qualcuno che non può farlo. Così, è andata proprio così. Quindi un po' il passaparola, un po' secondo me il fatto che in quel periodo lì in cui eravamo tutti in casa l'accesso ai social media fosse particolarmente intenso. Sì. E soprattutto il desiderio di fare qualcosa. Come sapete, Bergamo ha vissuto delle settimane drammatiche e ritrovarsi chiusi senza poter far nulla in tanti ha creato un senso di impotenza oltre alla sofferenza per la situazione. Quindi credo che sia proprio scattato naturalmente questo meccanismo di solidarietà e di appunto di attivazione, che sto continuando a dirlo, ma che credo che sia stato molto genuino, molto sincero. E in una chiacchierata, insomma, che abbiamo avuto qualche giorno fa, una cosa mi colpiva, che è emersa in un passaggio in cui ti raccontavi prima, che ad esempio tu non fai parte di nessuna realtà, però ti sei comunque inserita e li hai conosciuti, e quindi questo non è un gruppo unico, sono varie realtà ma anche vari singoli, quindi una cosa trasversale proprio sul territorio bergamasco. Allora, io credo che al di là delle azioni specifiche attivate in termini appunto di solidarietà rispetto a chi aveva più bisogno e che ha più bisogno oggi, uno dei valori di questo progetto sia esattamente la capacità di inclusione, di coinvolgimento anche di chi tutto sommato non c'entrava niente, quindi non aveva il, come dire, il cappello di una o dell'altra delle associazioni. E credo che questo sia da riconoscere all'intelligenza e alla sensibilità di chi un po' ha coordinato le azioni del progetto e alla capacità di riconoscere valore a quello che qualcuno poteva portare indipendentemente dal, diciamo, dal colore o dall'appartenenza. Questo mi ha stupito moltissimo perché pur lavorando in due cooperative sociali, quindi essendo avvezza al tema della partecipazione, una testa a vuoto, eccetera, eccetera, e anche ai meccanismi assembleari, io qui ho respirato una libertà e una capacità di coinvolgere che ho trovato rara, soprattutto se consideriamo che in un momento come questo, cioè di emergenza, tendenzialmente uno utilizza un po' di scorciatoie anche dal punto di vista organizzativo, logistico, insomma si va un po' in automatico, sì. Si taglia e molto spesso le prime cose che saltano sono esattamente i processi partecipativi. Invece qua è successo secondo me il contrario e trovo che sia molto importante per chi è stato coinvolto, per il progetto in sé, ma anche per la nostra città. Cioè è un valore generato questo che non credo che si esaurisca con l'esaurirsi del progetto. Lo speriamo, insomma, sarebbe importante. E la città come ha reagito? Cioè, nel senso, c'è stato un riconoscimento e una collaborazione anche a livello delle istituzioni? Allora, sì, come dicevo, inizialmente, poi questo me l'hanno raccontato perché io sono entrata un passo dopo, c'è stata subito una collaborazione col Comune di Bergamo, proprio in termini di coordinamento con la rete dei volontari che la città aveva appunto avviato. È una rete che si chiama Bergamo per Bergamo e che ha gestito insieme alle reti sociali del comune più o meno lo stesso tipo di bisogno che abbiamo gestito come Super Bergamo. Mm-hmm. Quindi ci siamo integrati in questa rete, c'è stata ovviamente una legittimazione esplicita di quanto veniva fatto, ma anche alcune facilitazioni concrete, quindi la sospensione della ZTL all'inizio, quando non era ancora sospesa per tutti. Mm-hmm. Per i volontari era possibile comunque circolare. Wow. Insomma, c'erano questi tesserini per cui è possibile banalmente saltare le code al supermercato. Allora, voi dovete pensare, oggi siamo al 18 maggio, ormai nella fase 2. Ecco, il 10 marzo la situazione a Bergamo è un po', non era come oggi, cioè fuori dai supermercati c'erano le code anche di un'ora e mezza, sì, non sì. Si trovavano alcuni prodotti importanti, quindi poter avere alcune facilitazioni come volontari era importante. E così si è proseguito e oggi per esempio stiamo cercando di ragionare su un progetto invece che si sposta sul versante artistico-culturale, cercando di rispondere invece a un altro bisogno che è quello di chi lavora nel mondo dello spettacolo, in questo momento non sta lavorando, e anche qui c'è un'interlocuzione aperta col Comune di Bergamo e con alcuni enti locali della provincia. Quindi il progetto continuerà e cerca di continuare in base ai bisogni nuovi che vengono fuori, no? A seconda del periodo. Ho capito ma bene. Questa è una riflessione aperta. Domani c'è appunto un'assemblea, ovviamente via Zoom, ovviamente, esatto, tutto quello che abbiamo imparato a usare. Vi siete organizzati con delle grandi assemblee sui social, sì. su Zoom, su altri sì, canali. Ma più che soci, chi è entrato un po' nel gruppo gestionale, una quarantina di persone più o meno. E quindi ecco, una delle questioni da sciogliere è il destino del progetto, cioè sul versante spese ovviamente, soprattutto da oggi in poi, quando essenzialmente chiunque può uscire, i numeri stanno calando, i numeri dei contagi e dei morti stanno calando, probabilmente tutta questa parte della spesa rientrerà come bisogno, però ne rimangono altri invece stringenti, che è il destino di persone che appunto fanno gli attori, fanno i musicisti, fanno i tecnici del suono, che in questo momento si trovano senza lavoro. Tutta una fetta che si trova senza lavoro e per tanto tempo, probabilmente. Scusami? Dico di tutta una fetta che per il momento si trova senza lavoro e che probabilmente per un bel po' di tempo rimarrà senza lavoro o rischia di rimanere. Esattamente. Ma e anche con poche tutele, nel senso che a differenza di altre categorie di lavoratori e lavoratrici, questi non hanno magari le stesse garanzie. Quindi è nata questa idea di poter ipotizzare di fare interventi nei cortili e stiamo provando a svilupparla anche con il Comune di Bergamo e altre realtà della provincia, non solo col Comune di Bergamo. Questo è positivo. E un'altra cosa che mi incuriosiva, tu dici, io ho letto questo post in Facebook e ho contattato le persone e immagino, no, e un po' me lo raccontavi, ti sei trovata a collaborare con volti sconosciuti. Che conosciuto sì, infatti tramite... ridendo ogni volta che mi presento dico sono Rosita, non conosco nessuno qui, e è andata così. Poi in realtà adesso un po' ci conosciamo perché un po' ci siamo frequentati via WhatsApp, via Meet eccetera, ed è stato molto più semplice in realtà di quanto uno possa immaginare, ovviamente con l'intelligenza di come dire, mettersi in gioco per quello che si è e si può e accogliere stesso modo, insomma, quello che uno può mettere in gioco. Ci sono dei limiti, ma ci sono anche delle potenzialità in questa modalità. Come dire, molto del rumore di sottofondo è praticamente eliminato perché non ce lo si può permettere nell'interazione che non è faccia a faccia. Interessante, interessante. Senti, ma qualcosa che vorresti proprio lasciare a noi, no? Cioè, di questa esperienza, cioè tu nello specifico, no? Hai parlato della realtà, tu nello specifico di che cosa ti sei occupata, no? In questi mesi, più di spese? Allora più io ho iniziato ad uscire a fare qualche spesa, poi sono stata esonerata perché gli over 40 dal primo di aprile non sono più usciti perché per motivi di sicurezza non era opportuno, essendo un po' più vulnerabili di altri appunto al contagio, alla malattia, e quindi sono entrata nel gruppo che ha scritto un progetto, il progetto questo che si chiama Super Gap, che ha a che fare appunto con l'attivazione di musicisti e di attori per degli attrici per degli spettacoli nei cortili. Ho dato un pochino una mano, ma laterale, sulla comunicazione, e adesso stiamo cercando di ragionare su come provare a valorizzare i volontari e i donatori, che sono stati tantissimi, perché in due mesi questo progetto ha raccolto 70.000 euro. Caspita! 640 donazioni, quindi davvero dei numeri grossi. Beh, allora, quindi anche chi non ha partecipato direttamente, insomma, ha donato e probabilmente è stato, insomma, un grande successo a livello generico, no? All'interno della Bergamasca. Sì, secondo me sì, perché al di là dei volontari e del gruppo organizzativo si è proprio creata una rete attorno, quindi per esempio questa realtà che si chiama Clamore, che organizza dei concerti streaming, invitando poi a fare una donazione, per dirne una, però si sono attivati anche molti testimonial, diciamo, che hanno fatto proprio una call to action rispetto alle donazioni. Però devi sempre rimanere un po' concentrata e contestualizzare. Bergamo in questi mesi sta vivendo una situazione assolutamente straordinaria, sì, che colpisce emotivamente ognuno. Moltissime famiglie, quasi tutte le famiglie sono state colpite direttamente da un contagio o da una perdita. Quindi, diciamo, senza sottovalutare, secondo me, lo spessore e il profilo di questo progetto, c'è anche un contesto che, come dire, facilita l'adesione e anche l'affetto rispetto a quello che Super fa. Vabbè, capita in un momento di vero ed estremo bisogno di qualsiasi, sì, tipo, che sia economico, che sia affettivo, che sia di poter aiutare, di dare qualcosa, di ricevere, insomma. Sì. Senti Rosita, noi intanto ti ringraziamo, io non so se Gringo e Camicia hanno delle domande, io vorrei chiederti, poi magari ci risentiremo con calma, se avrai voglia, magari quando ci saranno novità, soprattutto sugli sviluppi di questo progetto, magari gli sviluppi per quanto riguarda il progetto sull'arte, cultura e sulla musica, magari ci potremmo risentire, così ci aggiorni passo passo degli sviluppi che si riescono a fare anche a Bergamo, e chissà mai sì, che volentieri. In altre province, in altre regioni prendano anche spunto da un'organizzazione così, così sentita e funzionale, insomma, perché... Io sicuramente sono interessatissimo a questo argomento, infatti ero già pronto, non per farti ora l'interrogatorio, ma poi fuori dalla diretta ti chiederò alcune cose, perché... Non lo so, noi come ti darò il numero di Rosita, Camicia. Te lo ruberò di nascosto dal cellulare, e perché sì, come faccio parte di alcune band musicali e alla fine è tutto bloccato e stiamo cercando delle alternative per continuare a poter suonare in questi mesi. E stiamo osservando qualunque angolo possibile dove poterci rifugiare, e i cortili sono anzi lo spazio più bello che ci possa essere una città, perché allo stesso tempo spazio comune in cui è anche uno spazio con una bella acustica generalmente. Vabbè, che arriva a tutti i piani. Questa parte del progetto in realtà prevederebbe l'intervento in situazioni in cui gli spettatori neanche scendono di dalla casa, cioè proprio dalla finestra vedono diciamo lo spettacolo, la performance, il concerto, e l'idea è proprio quella di cercare di garantire la massima sicurezza, ma anche di attivare un intervento che possa essere gestibile velocemente, quindi senza dover per forza sottostare alla, come dire, a tutto l'iter formale che invece altrimenti sarebbe richiesto e che diventerebbe anche non sostenibile, perché noi, per esempio, il progetto che abbiamo scritto prevede una quantità di spettacoli enorme, cioè 6 ogni fine settimana per tutta l'estate, quindi non sarebbe ipotizzabile una gestione formale troppo articolata, troppo esigente, quindi per questo motivo, ma anche per evitare che ci si svincoli troppo facilmente dalla forma mentis, per cui dobbiamo ancora stare attenti, cioè non possiamo ancora abbassare la guardia a Bergamo, in Lombardia, meno che altrove, e quindi il messaggio è anche: te la portiamo noi la bellezza di cui hai bisogno, perché ne abbiamo tutti bisogno, siamo tutti un po' affamati, in difficoltà perché non riusciamo più ad accedere a nessuna esperienza dal vivo, te la portiamo noi, tu rimani lì. Ecco, questo è un po' il concetto chiave di questo progetto. Bene. Grazie mille. Interessantissimo, ti chiederemo davvero degli aggiornamenti se avrai voglia. Intanto io mi sento dire a nome del nostro piccolo trio di questa diretta speciale Castellano, di ringraziarti tantissimo, insomma, per questa testimonianza importante. Spero che anche chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà, perché di solito la maggior parte delle persone poi ascoltano nei podcast la nostra radio, insomma, possa magari prendere spunto anche dall'organizzazione, dalla grinta, dall'accoglienza, dalla tranquillità e dalla semplicità con cui avete gestito, insomma, state gestendo questo momento, insomma, molto particolare e faticoso. Grazie mille, Rosy. A voi un abbraccio. Un abbraccione, a ciao, presto. Ciao. Ciao. Enough for my day. It's the first of the sleigh. And now it's time for to sound your voice and capture what you're after. My ship was sold right up the river, but I'm not going down here. This journey isn't over. It's a long way to the house of Fitzcarraldo. And her last words were, I was always thinking of you. And my God, di ieri ha riscosso successo, mi sono detta che o sono veramente brava o i miei amici sono particolarmente disperati. No, tranquilli, non è un sondaggio, non necessito di risposta. Comunque, anche oggi vi voglio dedicare un momento con Vivin Q321 e la speciale, specialissima Q Play Chart è pronta per voi. Chi si fosse perso la puntata di ieri, giustamente capisco che le cose da fare siano tante, E sì, poi un giorno parleremo anche di quella sagoma del divano che vi assomiglia. Vivin' Q è un manuale di sopravvivenza per questi giorni di quarantena e la sua specialissima Q Play Chart vi offre ogni giorno tre brani da associare ai momenti della vostra giornata. Quali saranno quelli di oggi? Strano, vi interessa veramente? Vabbè, comunque partiamo con il primo momento. Quanto è bello passare tanto tempo a stretto contatto con le persone che amiamo. Forse però era più corretto l'imperfetto. Beh, comunque divisione degli spazi, delle cose da fare, della Nutella, dei biscotti e... Il blues, sì, poi è un attimo che ci si ritrova in una puntata delle regole del delitto perfetto. Comunque, dicevamo, la convivenza H24, sì, può essere veramente dura, specie per chi come me divide stanza e computer con un fratello minore che deve seguire le lezioni online. Ma voi provate a pensare ai poveri professori, anime perse in un mondo tecnologico che non gli appartiene, costretti ad insegnare ad altrettante anime perse che rispondono all'appello in pigiama. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can... Probabilmente è blasfemia, ma questo pezzo penso che esprima al meglio il senso di solitudine. Comunque, momento della giornata numero 3. Capisco che il tempo da passare sia tanto e effettivamente capita di pensare cosa posso fare per non annoiarmi. Tantissimi, aprendo Facebook, mi sto accorgendo che sono diventati panettieri. Pulire casa direi che con le condizioni meteo attuali non viene bene. La lettura, gli ingredienti degli shampoo non valgono come lettura, quindi l'unico modo pare essere entrare nel magico mondo di Netflix, dove sì, più o meno sai quando entri ed esci dopo 4 giorni. Comunque oggi vorrei dedicare a questo nostro compagno e amico fedele questa canzone. Com'è bello il mondo insieme a te, mi sembra impossibile che tutto ciò che vedo c'è. Sempre solo che io non sapevo come fare per guardare ciò che tu mi fai. Max Pezzali, Il mondo insieme a te, direi che calza alla perfezione. Comunque ragazzi, anche per oggi il nostro mini intervento è finito, spero di avervi regalato un momento di distrazione e di ironia e vi saluto alla prossima puntata con Vivin' Q. 13:59 AM. Ascoltaci streaming, il podcast. Ascolta le repliche, accedi al nostro blog. Insomma, ma quanto mi piace ascoltare le mie amiche bergamasche che sono parlano. Sono belle, non le vedo, ma dalla voce si percepisce. Sono bellissime anche esteticamente, devo dire, ma quello che conta è l'animo, hanno proprio un animo entrambe d'oro. E anzi, mi viene in mente, lo dichiaro in radio così loro mi sentono, ma poi lo farò. Insomma, sarebbe anche interessante metterle in contatto, perché comunque anche chi fa radio, chi si cimenta come... la Nani con la rubrica della Dani a fare questi brevi brani, insomma è sempre arte anche quello, e chissà che ne possa venire fuori qualcosa di buono, una radio artistica con diversi contributi anche nella bergamasca. Ma dai, proviamoci, la radio essere. Ha questa la funzione di connettere tra con le onde sonore. E poi la radio arriva ovunque, quindi anche i concerti, la musica, le letture, i brani, l'arte possono arrivare nelle case delle persone. Molto meglio poter vedere dai cortili, però magari se chi non può neanche arrivare al cortile può accedere alla radio, potrebbe non essere male. E quindi, c'è il gringo secondo me che aveva proprio lì che tutto il giorno che vuole dire un sacco di cose. Allora è arrivato, attenzione in diretta, una radio ascoltatrice. Attenzione. Fai complimenti alla Dani. Dice, ha una bella voce ed è anche piacevole da ascoltare. Che bello, brava Dani, brava la Dani, ascoltatrice. Dani, prenditeli tutti questi complimenti. Infatti siamo a 16.000 ascoltatori. Bene, bene. Ma Dani ci ha fatto guadagnare 5.000 ascoltatori esatto. dall'inizio della puntata. Che bello, che bello. Togliete sempre i due zeri, mi raccomando. I tre, magari. Qui. 15.000 vuol dire 15. 15.000. 15 ci sono. 15 buoni. E poi una è la Dani, una è la Rosy. Gringo, io sono spegni il telefono con il per cellulare. Piacere. Esatto, e di tre siamo noi. Allora, abbiamo solo 5 minuti prima di sentire la Liviuzza, una nuova telefonata della giornata. La salutiamo di già e andiamo con l'altro brano che era stata chiesto dalla Rosy, di Bruce Springsteen. Thunder. Vai a cagare, Rod. Bella, bella, bella. The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that Che romanticismi, grazie, grazie di averci dato questi consigli di musica. E qua il Camicia insieme a Gringo, insieme alla Dama dal Castello. Castello nella diretta Wombat Covid 19 by Wombat 20 e stiamo telefonando alla nostra amica Livia. Vediamo se risponde. Dovrebbe essere arrivata perché diciamo la Eccolo. Ciao. Ciao. Ma siamo già live? Siamo super live. Oddio. Aspetta, fammi diminuire il volume della metà, aspetta. Vai. Devo diminuire un attimo il volume, aspetta, vai. Vai tranquilla Livia, tanto tu sei abituata, ormai sei praticamente la nostra inviata speciale in ogni luogo e per ogni cosa, cioè la tua voce è conosciuta più di quella di chiunque altro, quindi se siamo direttamente guarda, in diretta che problemi ti fai? Se vuoi è che siete bellissimo, quindi va bene così, è un piacere. Vai Livia, io so che hai parlato col Gran Camicia, ma non so esattamente di che ci vuoi parlare. Mi sembra che ci sono un sacco di cose che bollono in pentola, vero Liviuzza? Sì, è vero. Allora, un po' eravamo rimasti che ci dovevamo aggiornare dopo il 1° maggio, che c'è stato questa prima volta per il 1° de maio femminista globale, che... appunto ormai sono passati 18 giorni, però insomma noi ci possiamo aggiornare quando vogliamo e niente, la cosa interessante così che mi sembrava carino raccontarvi era che questo coordinamento piano piano stava crescendo fra vari collettivi femministi in giro per il mondo, ma veramente in giro per il mondo, cioè dal Cile al Canada a gruppi del Nord Europa, dell'Est Europa, si sta parlando di connessioni anche che si vogliono implementare con l'Africa, l'Asia, infatti già ci sono alcune persone addirittura dall'Australia, insomma collettivi femministi vari e anche molto alle volte diversi nella loro origine e natura. Abbiamo approfittato un po' del fatto che c'è stata tutta questa cosa del coronavirus, che in qualche modo ha unito una serie di tematiche sul momento. Non mi risulta. E quindi c'è stata questa possibilità di provare un primo evento lanciato tutte insieme. Ed è stato il 1° di maggio. E appunto è stato un po' l'idea di. E mi ricordo perché abbiamo fatto una puntata proprio, si è parlato anche di questo, anche nel cadenasso radiofonico delle radio del Latino America come Wombat, ti ricordi? Sì, che esatto. Bello. Infatti volevo ringraziarvi. Ma figurati. Anche perché, dovere. Insomma, col mio spagnolo molto portignol ho cercato di cavarmelo. Insomma, i risultati sono andati bene comunque di questa maio. Esatto. E la cosa bella è stata che, a parte questa spinta, perché alla fine è un po' una scadenza, ti aiuta a arrivare a dei punti, no? Questo sempre lo sappiamo così. Però diciamo, una serie di cose sono incrociate, perché con la questione del virus c'è stata tutta un'implementazione del lavoro femminile. Quindi, cioè, negli ospedali con le infermiere, nelle scuole col telematico, col telelavoro, per tutta la questione che appunto tutti i lavori legati alla cura e all'educazione sono molto femminili, no? La presenza femminile. Quindi c'è stata tutta una riflessione che ha portato alla stesura di un manifesto e alla traduzione in tantissime lingue di questo manifesto, quindi credo che sia già questo sia un risultato enorme. E poi quello che è stato interessante è che poi ogni paese ha declinato con grande libertà il giorno del 1° maggio che cosa fare, e la cosa interessante che è quella che volevo un po' raccontarvi in breve è che il post 1° maggio ha aperto una riflessione su che cosa può fare questo coordinamento intergalattico e cosmico e quindi niente, bello. Ci siamo dette di cercare di mantenere dei ponti, quindi che ognuna di noi fosse un po' un ponte di collegamento col proprio collettivo, con la propria stazione territoriale, e di mantenere i rapporti in modo che possiamo risentirci e riconnetterci tutte le volte sarà necessario per degli eventi appunto su scala mondiale, no? Che noi poi chiamiamo transfronterizes, perché dopo l'internazionale siamo andati al transnazionale e dopo il transnazionale siamo andati al transfrontiera. E dopo dove andrete? E niente, insomma, quindi questo è un po' il lavoro, e quindi l'idea è di non diventare una cosa politica in sé, ma di rimanere un coordinamento di relazioni fra gruppi molto autonomi, molto indipendenti politicamente, che possano però riunirsi e ricoordinarsi in dei momenti chiave, tipo l'8 marzo, tipo il 25 novembre, giorno contro la violenza di genere, il prossimo 1 maggio, tutta una serie di cose in cui posso avere ancora maggior risalto il fatto di essere tutte insieme. Che strumenti utilizzate per coordinarvi? Non allora, mi è ben noi chiaro. Abbiamo due mailing list, cioè una mailing list paese e una mailing list internazionale. Più abbiamo alcuni altri strumenti come la mailing list traduzioni e un collegamento, diciamo, con chi poi si occupa dei social e dei punti di comunicazione dei vari collettivi. Per dire, noi come Non Una di Meno Italia ci sono alcune persone che si occupano dei social, per mia fortuna non io e quindi quelle persone poi si ricoordinano magari con chi ha fatto le traduzioni e tutto eccetera. E poi l'altra cosa che facciamo, tutti i martedì prima del 1 maggio ci siamo sentite su Jitsi a livello internazionale, almeno sempre con una, due, tre, quattro, cinque persone per situazione, anche perché chiaramente ci sono dei paesi dove c'è una pluralità di presenza, penso all'Argentina, al Brasile, al Cile, ma anche all'Olanda, alla Polonia, al Canada, cioè, ma all'America, cioè paesi che hanno tante situazioni differenti di femminismi e che quindi magari avevano anche delle presenze multiple. E poi, diciamo, legato a questo incontro su Jitsi, quasi sempre, no, noi avevamo anche un incontro pre-Jitsi, cioè nel senso ci incontravamo come Non Una di Meno Italia per un'ora precedente, in cui focalizzavamo su alcune cose che poi ritenevamo, okay, certo, importanti. Certo. E poi chiaramente abbiamo fatto anche delle scelte linguistiche, quindi tutte le riunioni vengono fatte in spagnolo. Evviva, ha vinto lo spagnolo sull'inglese, questa è già una rivoluzione. Poi però, chiaramente abbiamo anche aperto, grazie al mailing list traduzioni, un servizio di interpretariato, in modo che chi per esempio parla solo inglese o solo portoghese o altre lingue possa comunque partecipare e soprattutto intervenire ed essere tradotta in modo simultaneo. Bellissimo. Beh, e questi strumenti non li utilizzavate? Cioè, me lo sento, ma questi strumenti non li non li utilizzavate prima? Diciamo che sono state un buon esito di questo periodo di Covid. Sì, diciamo, allora, per alcune cose chiaramente Non Una di Meno a livello nazionale alcune cose già le usava, tipo Skype, così, anche se avevamo la possibilità di vederci almeno 3-4 volte l'anno a livello nazionale vis-à-vis, diciamo così. Però chiaramente il coronavirus e l'implementazione delle piattaforme online su videochiamata ha aumentato l'esigenza e il bisogno di aumentare il livello di competenza informatica e di connessione, diciamo così. Certo. Senti, studiati bene i femminismi in Olanda, perché mi interessa assai l'argomento. No, volevo citare una cosa. Mi incuriosisce. Stai rispondendo a porta aperta, perché io ho passato 12 anni avanti indietro con l'Olanda, quindi appunto, anzi, li sai. Possiamo fare un intervento un po' in olandese, un po' in italiano. Ma senti, dottor Io, per mercoledì vedrai, te lo fa fare. Vai, però la cosa che volevo citare, che secondo me è molto bella, è che la cosa più emozionante è che in questo coordinamento fin dall'inizio ci sono gruppi di donne native, come le donne Mapuche, come altri gruppi più piccoli cileni, e quindi diciamo, è molto bello perché ci sono esperienze veramente molto lontane, però in qualche modo che su alcune questioni stiamo cercando piano piano di costruire appunto questi ponti di comunicazione, di scambio, di informazione, di saperi, di lotte, di forme di lotta. E quindi questo è molto interessante, diciamo. Bene, bene. Senti una cosa, ma so che tra pochi minuti te comincia una nuova attività, ci vuoi raccontare che cos'è? Ah, vai, allora, detto, ho un po' aggiornata su Wombat, la dico proprio in due parole, perché diciamo così non sono proprio l'addetta a questo settore, però la dico perché mi sembra giusto, è un progetto importante su cui non di meno sta investendo tantissime forze a livello di nodo fiorentino. Abbiamo lanciato circa un mese fa Pop Walk, mensa popolare autogestita femminista, che praticamente si tratta di una cucina che ci hanno dato a disposizione molto gentilmente, la cucina del circolo delle Porte Nuove, dove tre di noi cucinano e prepariamo circa 70 pasti di un piatto caldo. E lo portiamo poi lunedì sera, grazie anche al coordinamento e all'appoggio di Vivian Love, che è il progetto in strada per le sex worker e trans, lanciato dalla cooperativa CAT tantissimi anni fa, circa 20 anni fa, che stavano già facendo un lavoro di consegna a pacchi settimanali alimentari. E noi abbiamo pensato che fosse importante che ci fosse anche la possibilità di offrire qualcosa di caldo, perché poi questi soggettività qua sono soggettività praticamente colpite dalla situazione derivante del virus e che proprio non stanno lavorando, alcune non hanno la casa, quindi insomma, oppure hanno degli affitti altissimi, e quindi ci sembrava anche un gesto di sorellanza. Lo volevamo fare anche per più sere, poi siccome sono tutte soggettività clandestine e migranti, non era fattibile farlo per tantissime sere, ci siamo accontentate per adesso di farlo una volta a settimana, e quindi niente, sto andando adesso a fare distribuzione, che generalmente dura un paio d'ore, e distribuiamo questi, cioè loro vengono a prendere un pacco alimentare e accanto al banchino della CAT con Vivian Love ci siamo noi, come non è di meno, che offriamo questo cibo caldo, diciamo, questa cena, che di solito ha un primo e un secondo di verdure, insomma, cerchiamo anche di implementarla per avere un contatto con loro, capire com'è la situazione, se ci sono magari anche delle allergie alimentari, se hanno delle cose che vorrebbero particolarmente mangiare, e quindi stiamo scoprendo questo mondo molto sommerso della città nella città, di queste soggettività trans e donne sex worker che lavorano a Firenze. Brave, brave. Altro sono tutte peruviane, qualche brasiliano e poi alcuni un po' random. Beh, bello, bravissima, sempre a mille Liviuzza. Sì, brava. Senti, direi ho fatto tutto l'intervento in bici. Ah sì, mannaggia, non lo diciamo che poi sennò è pericoloso. È un problema? No, ma che? Non dovrebbe. Ma figurati. Per il coronavirus, sono più contagiosa che sono in bici. Vabbè, considerando quanto starei sputacchiando a destra e a sinistra, sì. No, no, ma che? Bene, bene, forse almeno... l'ultima cosa che posso citare è dici. Che in piazza c'è anche Medu. Ah, bene, sì. Che fa un servizio anche dal punto di vista di check medico, visto che magari sono anche persone che per tanto tempo non hanno avuto la possibilità di avere un controllo, e quindi diciamo praticamente poi in piazza ci ritroviamo e siamo tre realtà. Dove troviamo queste informazioni? Tutto sulla pagina di Non è di meno Firenze su Facebook, adesso abbiamo anche Instagram. E abbiamo anche un blog su una blog, se non è di meno Firenze. Vabbè, Favoloso. E tra l'altro, l'attito così, abbiamo anche lanciato una importantissima campagna che si chiama Aborto, punto interrogativo, non sei sola. Okay. Dove raccogliamo testimonianze e facciamo monitoraggio sulla situazione aborto sotto Covid, e facciamo anche accompagnamento a chi è sola, a chi ha bisogno di essere accompagnata in macchina o anche solo di un sostegno psicologico per attraversare una scelta, una situazione, insomma, che magari è sempre un po' delicata per ogni donna. Bene, bene, grazie mille a tutte voi. Grazie. Vi abbraccio forte, a presto. Anche noi ti dedichiamo la prossima canzone, Livia. Ciao. Ciao. Ciao, Livia. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, stato troppo sole, va sempre più giù. A chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai. Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più. Dedicato a chi capisce quando il gioco finisce, non si butta giù. Ai miei pensieri, a com'ero ieri, anche per me. E questo schifo di canzone non può mica finire qui, manca giusto un'emozione dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a com'ero ieri, e anche per me. Ai miei pensieri, a com'ero ieri, e anche per me. Rientriamo al The Castle. Vai. Castello, salutiamo Pinguino che è rientrato giusto in tempo per preparare. Ciao, Pinguino. Del Castello. Aspetta, ti alzo un pochino. Vai. Ecco. Ecco. Sì. Ciao, Pinguino. Ciao, Pinguino. Saluta, sta salutando tutti. Sta un po' troppo spesso e qui al Castello è diventata una regia radiofonica. Te non sai che ce ne sarà tra poco ancora un'altra, quindi sarà lunedì, giovedì e venerdì. No, si scherza. No, vabbè, ma no, non vi siete mai domandati perché comunque, cioè, il Pinguino arriva orario pasti, quindi o A è il cuoco del Castello o B viene appositamente a mangiare al castello. O C è tutta una casualità. Lasciamo il dubbio ai nostri radioascoltatori, chi lo sa. È un pendolare del castello, anche potrebbe, è un pendolare del castello. Esatto, un pendolare. Certo, dorme all'addiaccio come tutti i pinguini e sente l'orario in cui si deve mangiare, insomma, l'orario di cena. Allora, ma soprattutto un appunto pinguino, cioè hai appeso uno scacciapensieri, fa un casino, non mi ha fatto dormire stanotte, cioè anche te, sì. Non è che puoi fare quello che vuoi in questo castello. Ci sono delle regole, che fa la dama. Okay. Ed eccoci, torniamo allora a un po' di numeri, come sapete, alle dirette del castello, alle dirette della diretta speciale del lunedì, come ormai solito da mesi e mesi, diamo la classifica dei paesi dove ci sono più tamponi e quindi più casi positivi, e partiamo ovviamente dagli Stati Uniti. La classifica! Classificone! Come sempre vince gli Stati Uniti. And the winner is... Come sempre, ormai... USA! Vabbè, sono tanti, però dice anche la Cina erano tanti. Lo so, erano anche di più. Stati Uniti 1.5 milioni di casi totali. E poi c'è una sfilza, Russia, Spagna, Inghilterra, e poi c'è il new entry tra i primi sei, che addirittura scavalca l'Italia, ed è il Brasile, che sta andando a 2.000, anzi a 3.000 casi positivi in più al giorno, ha già superato, penso arriverà seconda posizione a breve, perché hanno scialato peso. Purtroppo con i provvedimenti, non provvedimenti di Bolsonaro, come se ne parlava mercoledì scorso, con Marco del Movimento Senterras, purtroppo non avevamo grandi dubbi di questa scalata verso il primo posto del Brasile. Vero, sì, era stata pronosticata e preventivata. Anche dichiarato che purtroppo ci saranno dei morti, ma lui non ci può fare nulla, quindi... Soprattutto perché tanto saranno morti principalmente delle favela e cose così, esatto, che quelli ricchi che hanno un servizio sanitario decente, penso avranno meno probabilità di morire di polmonite per infezione polmonare da coronavirus. Esatto, questo è uguale per tutto il mondo. Cioè. Questo è uguale per tutto il mondo. Poi stavo guardando anche altri dati, vabbè, in Italia continuano a calare, ormai mi sembra siamo un po' libero tutti, però io volevo fare l'appunto, ci stavo pensando prima, quanto mi fa cacare questa fase 2. A me mi fa schifo. Sì. Sì, sono una merda. Ma qualcosa in particolare o mi in fa generale... cacare perché da una parte, dal punto di vista di chi comanda eccetera, nella prima fase, cioè adesso ti stanno dicendo da una parte che non ormai non si può tornare indietro e che molti di quelli che hanno perso il lavoro difficilmente lo avranno e che tante attività difficilmente riapriranno eccetera, ma al contempo non ti stanno dicendo quali sono le alternative, che cosa succederà. Quindi, come si era già detto l'altra volta, no? È un po' un limbo in cui non si può andare né indietro né in avanti, e quindi penso che tutti cercheranno di tappare i buchi dove esce l'acqua, però a parte sì, visto nel decreto rilancio qualche misura è stata presa, comunque sono misure ovviamente palliative, dare 600, 400, 800 euro di reddito di emergenza, però poi anche cassa integrazione durerà, ok, andranno avanti fino a ottobre, novembre, ma poi quasi non ne parlano più, ma sono proprio i contentini che non sono le cose che risolvono il problema. Ovviamente è che no. Non prendono realmente atto di quello che sta succedendo, c'è una sottovalutazione, cioè un menefreghismo forse più che una sottovalutazione. No, penso proprio un'incapacità di non saper programmare e un interesse di non voler programmare, però. E poi ovviamente il menefreghismo è quello è alla base di queste menti. Invece, parlando dal punto di vista di quello che vedo tra le persone, a quel misto di shock, ma anche di fase onirica della fase 1, in cui uno capiva ciò che gli mancava nella propria vita, in cui uno comprendeva cosa avrebbe dovuto fare per non ritrovarsi in questa situazione, eccetera. Adesso, con questo ritorno più o meno a una finta normalità, si stanno già dimenticando le varie critiche fatte, a parte non parlo dei movimenti di lotta, che quelli mi sembra che sono gli unici che hanno saputo carpire, però a livello di narrazione popolare, non solo dei mass media, ma dell'opinione pubblica. È già scemata molto la discussione sulle responsabilità, sulle responsabilità, ma anche sulla cosa. Parlano di inquinamento. Inquinamento. Non oggi ho fatto sono andato a trovare a Firenze i miei. Ho già trovato, vabbè, a parte un traffico già tornato, però al di là di quello, perché comunque la gente, finché non ci sarà un'alternativa biciclabile eccetera, si useranno tutte le macchine, motorini, ma a parte quello è proprio l'incapacità adesso di saper rimettere in pratica le cose sognate in questi due mesi per molti. Alcuni si dissocieranno dal sistema e va benissimo, però molti invece di quelli che hanno detto io non mi voglio trovare così nella prossima situazione, invece già ora stanno un po' ritrattando, e questo dispiace, sì, poi lo sapevamo un po' che sì, sull'onda emotiva della fase 1, quando con le spalle al muro avremmo tutti risposto in un certo modo, ed è stato bene sia stato così. E la fase 2 sì, è più critica, perché ora devi scegliere, cioè, fino a che lo devi immaginare, lo devi dichiarare, lo devi, diciamo, buttare lì sul piatto, va bene. Nel momento delle scelte la cosa cambia, ecco. Tra l'altro vorrei ricordare che collegando questa cosa della scelta di passare all'azione, oggi nasceva Falcone, che diceva proprio la stessa cosa della lotta alla mafia, che tutti sono contro, che tutti si lamentano, però quando c'è da passare all'azione è qui che molta gente preferisce lamentarsi invece che fare. E siamo un po' in questa fase. È il mood degli ultimi 40 anni, perché almeno da quando io sono nata, che purtroppo è così, e tutte le volte che si cerca di agire, le persone che agirebbero poi nel concreto sono troppo poche, e quindi le azioni poi si sentono anche poco. Però veramente io credo sia almeno dagli anni 80, se non ancora prima. Esatto, sì, sì, cioè, sì. Nel nostro paese sicuramente. Vediamo, cioè ancora francamente presto in realtà, io adesso le mie sono solo impressioni, così, pensieri a voce alta, perché poi dobbiamo capire in questi mesi come si evolve, perché tutto questo in questo momento è la riapertura, però la situazione emotiva delle persone che sono lì in attesa di capire cosa succederà, di capire quanto lavoreranno, a un certo punto quella cosa lì uscirà fuori dalle pance delle persone, si comincia a vedere a livello di sindacati di base, si comincia a vedere a livello di movimenti di lotta, però ancora non è generalizzata alla popolazione, e quindi me l'aspetto francamente per esatto, quest'autunno. Esatto, è come cioè, la fase 2, come ho detto diverse volte, è un limbo, quindi prima o poi ci dovremo svegliare, quindi quando ci sveglieremo prenderemo diversi schiaffi, e a quel punto qualcosa dovremo fare. Oppure ritorna un po' l'inferno. Esatto. Dal limbo si va all'inferno. Io limbo, non lo inferno. So se e quanto realmente i più si sveglieranno, no? Perché come la paura tante volte che questo sia come un capitolo, no? Chiuso quello, ritorna tutto come prima, senza un pensiero, senza niente, con miliardi di persone in più che hanno bisogno, hanno dei problemi eccetera, però con la media che comunque procede a tentoni o anche egregiamente per la loro strada, senza mettere in campo più una serie di riflessioni che magari nel periodo di stallo aveva iniziato almeno a paventare. Questo è una paura, ma io ho proprio un po' paura, cioè ho la sensazione che succeda così. E comunque oggi nella mia pagina personale mi è apparso, nella mia pagina personale di un social network, mi è apparso una inserzione sponsorizzata. Sbaglio o questo gringo è troppo dipendente da tutta la tecnologia moderna? Mi è apparso una inserzione sponsorizzata c'era un video che parlava palesemente a favore della FCA per quanto riguarda gli aiuti di Stato che ora si stanno mettendo in campo per le grandi aziende, con tutta la polemica, con le polemiche che si stanno giustamente formando sulla questione dei fondi alle grandi aziende, insomma, è tutta una cosa del genere, che poi pagano le tasse nei paradisi fiscali, eccetera eccetera. Però era palesemente un'inserzione sponsorizzata da chi? Cioè, ma era proprio palese che era sponsorizzata da qualcuno che aveva interesse a far passare questo messaggio, che era una cosa buona, che se è una cosa buona, insomma, sarà buona veramente? Non sono un economista, non sono un politologo, non lo posso dire, insomma, non lo saprei dire, però domandiamocelo. Io ripeto, rimango un po' scettica e pessimista, e mi riallaccio solo per fare questa considerazione, perché comunque se guardiamo anche solo il mero sistema carcere, nel sistema carcere ormai anni si dice che il carcere non è più il luogo dove uno va a scontare una pena di isolamento, ma dove uno può trovare un percorso trattamentale di inserimento educativo, eccetera, chiamatelo come volete, alcuni educativo non piace, alcuni non piace trattamentale, però comunque un percorso dove una persona può trovare delle risorse altre e diverse. In realtà alla fine il carcere è una struttura veramente detentiva, appunto, e basta guardare le scelte che sono state messe in campo in questo periodo, dove è indispensabile, perché per ruolo si è deciso che hanno molta più importanza gli agenti di polizia penitenziaria che controllano e hanno il controllo, il ruolo della restrizione del controllo eccetera, piuttosto che ad esempio gli educatori, che sono stati tutti incentivati a starsene a casa o a lavorare due giorni dal carcere, due da casa. Cioè è una questione di che cosa lo Stato ritiene indispensabile. Io ritengo che siano indispensabili due educatori in più e due guardie carcerarie in meno, perché la funzione educativa è molto importante, che siano alle volte molto più importanti i contenitivi, i volontari che vanno e offrono delle attività di reinserimento alle persone, piuttosto che gli agenti di polizia penitenziaria. E sicuramente non è che uno è più contagioso dell'altro, perché quello purtroppo dipende anche dalle proprie abitudini, ma il fatto che comunque è stato legittimato che solo loro, perché sono indispensabili in questo sistema, indispensabili in questo sistema solo loro, vuol dire che allora non è vero che si sta facendo tutto quel percorso che da anni viene detto di carcere non più luogo come un luogo punitivo, ma come luogo di reinserimento sociale. A me viene da dire che non è così, che forse ci hanno illuso con queste parole che poi non hanno messo in pratica minimamente. Sembra proprio di sì, anche perché la logica che appunto viene fuori da quanto hai detto è che l'aspetto punitivo è più importante, l'aspetto coercitivo più importante della riabilitazione sociale, quindi tutto l'opposto di quello che sarebbero invece le fondamenta del sistema carcerario e della nostra democrazia. No, non lo dico io, è scritto nelle leggi, è scritto nella Costituzione, quindi cioè, non lo dice ma è solo un esempio per dire che comunque purtroppo, nonostante ci siano state delle riflessioni, no, in questi mesi di emergenza e di cambiamento drastico, no, anche delle nostre vite, certe cose non sono cambiate minimamente, cioè certe priorità purtroppo rimangono sempre solo quelle, quindi è difficile che si avrà veramente un pensiero un po' più illuminato, un po' più attento ai bisogni delle persone. Non c'è la volontà, non c'è la reale volontà, né prima, né durante, né dopo. Ecco, sulle carceri, insomma, questo aspetto delle carceri, a parte un mondo proprio a sé stante, che non ha nulla a che vedere né con le regole del mondo reale, di una democrazia, e né con, cioè, delle regole diverse, ma soprattutto se ne parla troppo poco. Quindi cioè, quello che succede dentro il carcere resta più o meno dentro il carcere. quando escono fuori vuol dire che c'è qualcosa di veramente grosso. Poi se si segue un po' le pagine delle varie associazioni che fanno informazione sugli abusi della polizia sia dentro sia fuori le carceri, ovviamente, tipo ACAB, scusate, viene fuori insomma un po' di questo mondo. Ci sono delle associazioni o delle entità che secondo me denunciano. Quello che io trovo che viene fatto troppo poco è un accettare che certe cose ci fanno bene, no? Un accettare che adesso comunque gli istituti sono tanto bravi, stanno pensando a come riaprire da questa settimana i colloqui, ma come lo stanno facendo? Cioè, sulle direttive ministeriali c'è scritto proprio di cercare di disincentivare, che non è obbligatorio, però di disincentivare l'ingresso dei minori fino ai 14 anni, che magari sono quelli che più avrebbero bisogno di vedere i loro genitori. Perché? Perché c'è il pensiero che la famiglia che va in carcere non è in grado, come all'aperto, come tante altre persone, di gestire la situazione anche lì. In realtà forse bisognerebbe provare a dare un po' più di fiducia a queste famiglie, perché comunque vengono sempre discriminate. Viene discriminato il fatto che io decido che tu non sei in grado di gestire, quindi metto un vetro, rimetto un vetro, e nessuno si sconvolge, perché in nome della sanità, guai, viene ripristinata una cosa che per anni e anni e anni, cioè che ci sono voluti anni e anni di lotta per togliere. Cioè, questa cosa secondo me è inaccettabile. Non c'è un minimo pensiero su un minore. E poi i trasferimenti per riavvicinamento al nucleo familiare sono assolutamente sempre in nome del coronavirus vietatissimi, almeno fino al 31 luglio così pare. Però se un detenuto prende un rapporto o fa una cosa che non è consentita al carcere, allora il trasferimento va bene, si può fare anche con i rischi del coronavirus. Non lo so, io forse valuterei, cioè, perché uno sì e uno no, si sta parlando della stessa cosa ma per due cause diverse. Allora è proprio una causa molto più importante dell'altra, così importante che allora non è neanche più paura di contagio o altro. Forse i bambini sarebbero una causa molto importante. Sì, fa notare bene, sì, questo aspetto un po' della recessione che stanno parlando ovunque, la recessione economica, ma per molti aspetti, no? C'è anche una fase reazionaria ora in cui certe misure che avevamo superato anni o decenni fa ora tendono a essere in parte reinserite. Questo, ecco, il lavoro di noi tra i movimenti sarà anche questo, proprio, esatto, una resistenza non contro il nuovo che sta per arrivare, perché nessuno sa che cosa proporre di nuovo, ma è una resistenza al vecchio che avanza, esatto, anche in questo caso. Quello che si intravede è un maggiore controllo sociale, ma proprio attraverso meccanismi proprio da Grande Fratello o da... Sì, di cui non si dice nulla ora, no? Pare sia ancora legale far scorrazzare i droni. Esatto, esatto. Sì, non sì. Mi sembra che ci sia stato... Qualcuno paventava che faceva un riferimento a delle situazioni precedenti e diceva... Dopo le Torri Gemelle sono state introdotte delle misure che dicevano dovevano, soprattutto per gli aeroporti, tutti i controlli di sicurezza, dovevano essere, non erano controlli che dovevano restare per sempre, ma erano provvisori per questa situazione. In verità ce li siamo... L'ambasciata americana a Firenze, ce li siamo, ecco, tutto chiuso, esatto, quel quartiere, quell'isolato ancora. Esatto, è chiuso. Sono tutte misure che sono diventate la normalità, ma che hanno ristretto molto le libertà dei cittadini. Quindi sembra che... Cioè qualcuno dice, vedrete che i droni... Ma questo lo diceva già due mesi fa. Vedrete che i droni resteranno anche dopo. A cosa serviranno dopo i droni? A cercare i malviventi. Cambierà sicuramente l'oggetto per cui serviranno i droni, ma intanto ci terremo un controllo sociale più stringente, e questo è sicuramente, non i droni in sé, cioè in generale questa voglia del potere di controllarci proprio fin dentro alle nostre case, è questo che dobbiamo cercare di combattere da adesso in poi. Mi viene da ridere perché questo collegamento, no, di alcune cose che hanno messo adesso, che poi rischiamo di trovarci. Viceversa, invece, sempre per parlare di carcere, ho la sensazione che invece le uniche cose positive che sono state, appunto, aprire alle telefonate, alle videochiamate, alle chat, che sono tutte queste cose che sono state inserite adesso, vediamo se dopo avranno almeno il buon senso di mantenerle, perché ormai che gli istituti sono dotati anche di una certa tecnologia, non vedo perché invece di fare 6 telefonate al mese non ne possa fare di più e non possa magari, soprattutto se ha figli, fare delle videochiamate. Questa è un'altra grande scommessa che però, ma, staremo a vedere. Sì. E tra l'altro, sì, questo del tema delle carceri poi è molto molto interessante, proprio perché diceva un tale che sono lo specchio di come uno Stato affronta il proprio aspetto più scomodo, un po' la propria ombra. Cioè, se guardi com'è la relazione, no? E le dinamiche di potere, ma le dinamiche legislative, di sicurezza, cioè come funziona un penitenziario in ogni paese, è lo specchio, l'immagine di tante cose di cui uno dovrebbe parlare, che riguarda anche tutta la società in generale, ovviamente, non soltanto quello che viene il reo, che viene rinchiuso nel carcere. Evidentemente la società italiana. Sì, tutta, sì, sono importanti tutta, riflessioni per imparare. Noi non saremmo qui, no? No, chiaro. Ma diciamo si dovrebbe fare anche questo tipo di riflessione. Infatti, guarda caso, c'è cioè, Strammer e Mescaleros con Police and Thieves, che ci accompagna nei prossimi 5-6 minuti. Vai. You still got vocal cords? Give us some assist on this one, thank you. And this one's going out to those other two cunts in the Clash. That's affectionate, of course. Namely, Paul Simonon and Nicky Topperhead. Attenzione Sanfrediano, attenzione contado, è riaperto il mercato contadino in Piazza Tasso, ogni venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Garantiamo cibo sano e locale, libero da pesticidi e contaminanti di ogni genere. Venite a trovarci, tutela la tua salute e sostieni i contadini. Oh, mercato contadino, mercato genuino, ma e quindi che si dice di questo mercato? Gringo, tu ci sei passato per caso? Io sì, ci sono passato e devo dire ho trovato un bell'ambiente. Oh. Un ambiente vivace, come al solito, quindi florido, bravo, florido, e rispettoso delle distanze. È cresciuto, perché anch'io ci sono passata e non c'era solo da una parte, ma anche da, non so come spiegarlo, no? È cresciuto il numero di bancarelle. Sì, stiamo tornando alla normalità, il mercato torna alla normalità e ci sono quasi tutti i produttori, quindi evviva la comunità Jérôme Laronze. Affluenze buone? Affluenze buone, non tantissimo, ma questo sappiamo sempre, tutte le volte abbiamo avuto che c'è stato uno stacco al mercato, poi ci voleva un po' di tempo per riprendere, però non so, forse è una coscienza collettiva, ma la gente è un po' diluita, diciamo, non viene tutta insieme in un orario particolare. Cioè, non ci sono le onde barbariche. Esatto, questo aiuta anche la gestione del mercato dal punto di vista del contenimento del coronavirus. E difatti penso che anche i produttori siano, diciamo, contenti. Beh, i pochi che ho riscontrato io, come direbbe un vero toscano, erano abbastanza contenti e soddisfatti anche dell'incasso. Ma una domanda, ma al mercato in Piazza Tasso si chiacchiera? Al mercato in Piazza Tasso si chiacchiera perché non è proibito dalla legge chiacchierare. No, perché sai, tutte queste mascherine davanti, la gente quando sta in fila sta muta, non dice nulla. No, invece si può parlare, anche perché se la mascherina, quando sei a più di un metro di distanza, è una sicurezza in più che noi abbiamo adottato anche, come tutto il resto, però ti consente anche di hackerare. Cioè ti consente anche di hackerare più tranquillamente per chi avesse dei problemi al riguardo, quindi Non c'è nessun problema e questo aiuta il mercato, ecco, aiuta la vivacità del mercato, perché ce n'è bisogno, la gente ha bisogno un po' di positività. E facciamo un po' di pubblicità a questo mercato di Piazza Tasso, esatto, con i caprini delle fornaci e la salsa di pomodoro secco della Tizi. Mi forrà pruno buono, ecco. Infatti noi ci siamo a fame, sentite, fai sentire me. Faccio sentire? Fai sentire, ecco. Ecco, sentite il... Però dillo il pane che l'ha fatto. Il pane l'ha fatto la dama. Ecco, questo pane purtroppo non lo trovate al mercato, perché è fatto direttamente dalle manine sante della dama. Però fa solo per noi, solo al castello. Se volete scriveteci, vi invitate al castello e vi faremo un menù particolare. Apriamo una nuova attività al castello oltre alla regia di Radio Wombat. Comunque abbiamo già tutti i nostri cuochi all'opera. E comunque sì, con gli ottimi prodotti del mercato contadino di Piazza Tasso, dei produttori, della comunità Jérôme Laronze, si fa un aperitivo della Madonna. Della Madonna. Senti, a proposito di aperitivo, salutiamo. Devo salutare un poco più, no? Stiamo apprezzando. Salutiamo. Facciamo un brindisi con vino di Giovanni, perché anche il vino viene dal mercato. Castello, brindisi al contado. Dai, un brindisi alle prossime fasi. Liberi tutti, un brindisi al pinguino. No, speriamo che insomma sia l'inizio di un'apertura, ma speriamo veramente ancora di più che sia l'inizio di un'apertura mentale, perché ci vuole veramente prendere in serissima considerazione una serie di fattori e soprattutto tutta una serie di persone disoccupate, noi che viviamo a Firenze cioè, vicino a Firenze, di cui non so, tutta una fetta di nostri amici o conoscenti lavora, ad esempio nel turismo, sappiamo bene cosa vorrà dire una stagione pessima. È un non lavoro, altro che cassa integrazione. Nella ristorazione, nel sociale, è tutta una grossa fetta. Nel sociale ci sarà comunque da fare, mi sa. Perché si creano degli spazi vuoti di disagio. C'è sempre da fare, bisogna vedere se poi c'è qualcuno che ti dà i soldi per già fare. Quello esatto, quello è sempre più difficile. Beh, salutiamo tutti di nuovo al prossimo lunedì. Ascoltate Wombat quando esatto. potete. Forza Wombat, da retta al Wombat, da retta al Gringo, da retta alla Dama, al Pinguino, al Camicia, e a tutte le compagne che ci accompagnano e che mangiano il pane con noi. Stay tuned, stay Wombat. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, necesita cachonda. Cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata para moverse, necesita onda, música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Ascolta le repliche, accendi.